Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A caccia di sciamani con Carlo Pizzati. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Tre mesi dopo, Fantozzi, di fronte all'immagine dell'inizio di un tragico declino fisico, decise di dimagrire. Dopo 90 anni di vita sedentaria, la sua parola d'ordine fu: moto, moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, la tua età. Ma che prudenza, ma che età? Tina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, mi sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo di Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me piace anche così. Il mal di schiena, come poteva mancare nel curriculum di sventure di Ugo Fantozzi? E il viaggio di oggi è proprio un viaggio alla ricerca delle origini di un terribile mal di schiena. Il mio accompagnatore Carlo Pizzati ha poco a che spartire con il mitico ragioniere. Certo è che quello che gli succede in ben 2 anni di peregrinazioni dall'Italia agli Stati Uniti, dall'Argentina all'India, per trovare una soluzione al suo dolore, è certamente interessante, perché gli ha permesso di indagare il collegamento tra tecnologia e spiritualità, da cui poi è nato il suo libro Tecno Sciamani. Ma a tratti è anche esilarante. Allora, cos'è Tecnosciamani? Tecnosciamani è un viaggio ai confini del mondo per curare un mal di schiena cronico e poi diventa un'indagine tra spiritualità e tecnologia, sul rapporto tra la spiritualità e la tecnologia. In realtà si tratta semplicemente di un lungo viaggio durato 2 anni che inizia in un momento difficile della mia vita. Cioè, io, uomo in crisi di mezza età, un matrimonio crollato, sfaldato alle spalle, un cambio di città, un cambio di lavoro, interrompo la carriera giornalistica e decido che è venuto il momento di cercare di andare alla radice di un problema molto più serio, che era un lunghissimo e cronico mal di schiena che mi faceva soffrire da decenni ormai e che avevo sempre un pochino messo da parte, pensando vabbè, prima o poi mi curerò, intanto stavo chino a scrivere articoli, libri, eccetera. E invece finalmente decido che okay, basta, devo fare qualcosa, metto a posto il corpo. Inizio quindi vicino a dove mi trovavo a Vicenza, ho lasciato Roma, e mi suggeriscono di andare a trovare questo posturologo, termine che non avevo mai sentito menzionare prima. Però questo signore era un dentista che parlava mezzo vicentino, mezzo italiano, mi dava tante pacche sulle spalle, pensavo fossero terapeutiche, invece no, continuava a chiamarmi vecchio, io sapendo che lui era anche più vecchio di me, dicevo no, vecchio piano, quindi già sono qui col mal di schiena un po' ingobbito, mi dai anche del vecchio. Carlo è davvero simpatico. Ancora al telefono, quando abbiamo deciso di fare questo viaggio a caccia di sciamani, mi ha parlato in dialetto veneto e nel corso di questa indagine alla fonte del suo mal di schiena lo rifarà strappando mi ogni volta un sorriso. La meta di oggi non ha niente a che vedere con le solite mete, come avrete intuito. Eppure, l'idea che un viaggio abbia inizio solo per cercare una cura a un problema fisico e non per visitare semplicemente un luogo o una città, mi piace. Non mi resta che farmi un giro tra stregoni e riti alla ricerca della mia medicina. Io sono il matador, non sono il marinero, io sono il capitano, I am dynamite. I am wrong, I am right. Sono disorientato. I am looking for love. I am Frank Sinatra. I am Spider-Man. Ich bin der Kommissar. I do the best I can. And I move my feet to the beat. And I move my body to the party. I move my feet to the beat. And I move my body to the party. Ecco la medicina. Il posturologo vicentino non ha un grande effetto sul dolore di Carlo Pizzati, il mio compagno di viaggio di oggi, col quale siamo partiti alla ricerca del benessere fisico, visto che un terribile mal di schiena lo affligge da anni. Così, dall'Italia, partiamo per gli Stati Uniti. Ecco, mi invita un amico al suo matrimonio in una città un po' New Age in America, in Colorado, e lì ne approfitto per chiedergli se mi può dare un consiglio su come cominciare a curare un po' questo benedetto mal di schiena. Eli, questo amico scrittore, Eli Gottlieb, mi presenta a una sua massaggiatrice amica, che è una specie di sacerdotessa, diciamo tra virgolette, del Rolfing, che è un massaggio molto molto profondo, inventato da un signore appunto che si chiama Rolf, che in realtà prevedeva una serie di una decina di sedute, che è un massaggio dolorosissimo. Il Rolfing è un metodo di lavoro corporeo che si sviluppò negli anni 40 e 50 negli Stati Uniti, grazie alle intuizioni della dottoressa Ida Rolf. Questa tecnica ottimizza l'allineamento della struttura umana in relazione alla forza di gravità e raffina la percezione del corpo nello spazio circostante. Infatti lei appena mi vede mi dice: tu cammini tutto storto, devi camminare come una volpe nella neve con un piede davanti all'altro, cosa mi spiega tutte queste cose un po' new age, animalesco, bisogna stare come gli animali eccetera, e poi mi mette sul lettino e mi massacra con i gomiti, un dolore lancinante, però effettivamente dopo questa prima sessione di massaggio mi rimette di fronte allo specchio e vedo che sono più allineato, cioè le spalle sono più dritte e qualche beneficio mi sembra di averlo avuto. Ma non mi basta e inizio a praticare anche lo yoga Ashtanga, cosa che avevo imparato qualche anno prima, anche però non avevo mai approfondito, un tipo di yoga abbastanza profondo, inventato da Pattabhi Joyce, un guru indiano che poi avrò avuto modo di conoscere nel corso di questa inchiesta personalmente, quando diciamo questo viaggio inchiesta si trasferirà in India più avanti, perché lì finisco poi alla fine, te lo anticipo. La sensazione che avremmo fatto una capatina in India, visto il tema di questo viaggio, ce l'avevo fin dall'inizio. Ma diamo a Carlo il tempo di arrivarci dopo aver solcato tutte le strade, geografiche e terapeutiche che siano, che costellano il suo percorso verso una schiena senza dolore. In ogni modo finisce il periodo in Colorado, facendo un po' di yoga vado un po' meglio, ma sento che c'è ancora molto forte questa fitta lancinante sulla schiena. Vado a Los Angeles a trovare un altro amico e continuo, ormai rompo le scatole a tutti con questa storia del mal di schiena, gli scricchioli che sento alla schiena, fitte lancinanti, mi tolgono il respiro a volte, anche viaggiando, dopo i viaggi mi ci vogliono 2 giorni per riprendermi, eccetera. Lordosi sommata a scoliosi, questa è diciamo la vera e propria diagnosi che è stata fatta. A Los Angeles usciamo così una sera con questo amico, con delle amiche, amici suoi, vedo 2 o 3 amici che conoscevo da tempo, e ci troviamo a cena assieme a questa Catherine che mi dice: io ho la soluzione per te. Come va? Sì, bene, sì, bene, no, bene, mi sento bene, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina, bene, quindi migliora a vista d'occhio, bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene, anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto: ah, dottore, mi sento sempre fuori posto, come un applauso fuori tempo, come una suora in mezzo al bosco. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A caccia di sciamani con Carlo Pizzati. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo partiti da Vicenza con Carlo Pizzati, che sta cercando un rimedio a un insopportabile mal di schiena. Dopo essersi fatto chiamare vecio da un posturologo che lo ha riempito di poco terapeutiche pacche sulle spalle, è partito alla volta del Colorado, dove comincia a praticare lo yoga Ashtanga. Ma è quando una sua amica gli dice: io ho la soluzione per te, che qualcosa davvero cambia. Siamo ora arrivati a Los Angeles. Sono curiosa di capire se la città degli angeli ha il potere taumaturgico che spesso le si attribuisce anche per il dolore del mio accompagnatore. Il viaggio di oggi ha davvero una piega diversa rispetto al solito. Qui che ha una svolta un po' questo libro e questo viaggio anche per me, perché lì a Venice Beach, a Los Angeles, ricevo questo invito assieme a questo amico surfer, un amico di Harlem che fa il surfer in California in questo periodo della vita. E dice: venite a trovarmi domani sera e vedrai, io ho un macchinario che ti spiegherà che cosa hai, qual è il tuo problema con la schiena. Andiamo. Ci sediamo, lei comincia a spiegarci che cosa è questa cosa, apre il computer, poi mi mette delle polsiere ai polsi collegate a dei cavi, collegate a una macchina che è collegata al suo computer, e poi mi infila anche uno strano nastro attorno alla testa, sempre con dei cavi tipo Frankenstein. Io aspettavo anche alle caviglie e ai polsi, quindi ero completamente legato a questa macchina, legata a questo computer, dove compaiono delle immagini dei colori, immagini del corpo. Allora lei mi guarda i chakra, mi spiega che ci sono 7 punti nevralgici nel corpo, che iniziano dalla sommità del capo fino in fondo sotto l'inguine, diciamo, e mi dice: no, tu sei messo malissimo, cioè, intanto attività sessuale, qui il tuo chakra dice che proprio sei sfasatissimo, sei proprio da tempo che ti aveva ragione. E poi fa il chakra più in alto, chiuso, no, questo, quello è l'unico che era aperto, il dialogo col divino secondo lei, e quindi mi fa già una diagnosi molto preoccupante sul fatto che io sono completamente disallineato. C'è un nodo karmico che risale a molti anni prima, scopre Carlo. Anche se c'è un po' di scetticismo verso questa diagnosi, il tutto è molto divertente. Non fosse che per la storia che sta dietro all'inventore del quantum biofeedback. Vabbè, io sono nato in Svizzera e quindi non sono stato neanche battezzato, e sono cresciuto sempre con un convinto sano ateismo, quindi non avevo sempre avuto un afflato, un interesse per la spiritualità, ma sempre partendo da una radice fortemente illuminista e razionale. E allora mi sono chiesto quella sera: vabbè, mettiamo che esista la spiritualità, cioè la cosiddetta anima, è possibile che un macchinario possa fotografarlo veramente, come mi sta dicendo questo quantum biofeedback, che era il nome di questo macchinario, che poi è molto in voga in California, perché si vendevano questi macchinari. Poi, tra l'altro, indagando, ho scoperto che l'inventore del quantum biofeedback in realtà è un signore che ama travestirsi da donna, che è ricercato dall'FBI e che vive in questo momento a Budapest facendo degli specie di film su Attila, e anche vestito da donna, in cui lui canta delle specie cose di burlesca, ecco, per cui poi c'era quel lato divertente. Beh, alcuni, io credo che sia indagato perché l'FBI diceva che lui proponeva alcune capacità terapeutiche di questo macchinario che non erano dimostrate, forse per curare il cancro. Lascio la California e me ne torno in Italia, sempre col mal di schiena, quindi distrutto, arrivo dopo un lungo viaggio transatlantico di nuovo col cuscinetto sulla schiena, un disastro. Però ricevo all'arrivo un invito, trovo a casa mia un invito per andare a una festa, le Cinque Terre, sui monti sopra a Levanto, la Liguria, da quelle parti lì. Un'amica che avevo conosciuto 8 anni prima, quando abitavo a Buenos Aires, che lavoravo per Repubblica a Buenos Aires, un'amica mi invita a un festival di musica trance che mi aveva fatto conoscere 8 anni prima, una musica elettronica a 155 battiti al minuto che servono per far andare il cuore a quella velocità, per indurre delle visioni. Diciamo che la vera motivazione di questa musica è quella di aiutare a indurre delle visioni, ed è stata presa in prestito dagli sciamani siberiani che generavano in maniera naturale, senza l'ausilio dell'elettronica, ma semplicemente con i tamburi, per indurre delle vertigini autoipnotizzanti, per avere delle visioni, per spiegare alla propria tribù come sarebbe stato il futuro, come fanno spesso gli sciamani. 24 ore non stop di musica trance. Carlo le vuole provare tutte per farsi passare il dolore alla schiena, e le sorprese non mancano. E comunque invece si rivela molto interessante anche per la mia indagine, perché a un certo punto, vedendo dopo ore e ore e ore di ballo allargarsi uno spazio al centro della pista da ballo all'aperto, in mezzo al polverone, sotto le tende nel caldo a 1000 metri d'agosto, vedo qualcosa di molto strano, cioè che questa mia amica, che che mi aveva invitato, che abitava in Argentina, faceva degli strani movimenti attorno ad un'altra ragazza che ballava, come se questa ragazza avesse mal di pancia e lei con le mani stesse togliendo qualcosa dalla pancia di invisibile. Poi dopo mi ha raccontato che lei, spinta da non so quale ispirazione dentro la musica, aveva immaginato di vedere un groviglio nero, gliel'aveva tolto, e infatti la ragazza, che sembrava essere sul punto di vomitare, invece si era fermata e, da pallida che era diventata di nuovo sorridente, rilassata, e io avevo, mi sembrava di avere testimoniato qualcosa di abbastanza inspiegabile, che comunque mi riconduceva al percorso intrapreso a Los Angeles, cioè di cercare di capire se ci fosse davvero la possibilità, in quel caso specifico, che la musica elettronica, quindi la tecnologia, avesse davvero in qualche modo, attraverso l'uso di allucinazioni o l'immaginazione delle persone che ballavano in quel momento, aperto qualche canale spirituale oppure dimensionale. La tecnologia e la spiritualità cominciano ad apparire legate. Che viaggio inverosimile, penso, questo di oggi. Ma il contributo al percorso di guarigione dell'amica di Carlo, che lui chiama Salomè, non è finito qui. Torno quindi a Venezia, che vivevo in quel momento, e dopo un po' di tempo mi arriva un invito da Salomè che mi dice: guarda, visto che tu hai questo problema con la schiena, perché non mi vieni a trovare in Argentina, perché qui secondo me vado a trovare una mia amica guaritrice in un luogo dove voglio comprarmi un terreno, perché voglio andare a prepararmi per il 2012, voglio trasferirmi lì, perché lì non arriverà l'ondata distruttrice della profezia Maya. E dico: vabbè, molto tempo che non ci vedevamo, e parto. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A caccia di sciamani con Carlo Pizzati. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo appena tornati da un festival di musica trans alle Cinque Terre, spinti dall'amica di Carlo Pizzati, che lui nel suo libro Tecno Sciamani chiama Salomè, sulle tracce di una guarigione possibile per il mal di schiena del mio accompagnatore, mal di schiena che lo ha spinto a intraprendere un viaggio in giro per il mondo e, cosa non secondaria, a indagare quale rapporto ci sia tra spiritualità e tecnologia. Adesso stiamo per partire per l'Argentina. Ci troviamo così nell'arco di pochi giorni in un luogo che ancora non ho rivelato mai, perché mi è stato chiesto di promettere di non rivelare dov'è, però diciamo è a nord dell'Argentina, fin qui si può dire, dove con Salomè andiamo a conoscere questa che nel libro in Tecno Sciamani ho chiamato G per guaritrice. E lì diciamo che, in più che la parte tecnologica, ho ampliato in Argentina l'indagine più spirituale, anche se in mezzo a queste bellissime montagne, dove si dice tra l'altro siano atterrati gli extraterrestri, e sono un luogo di grande attrazione turistica, perché dicono che ci sono proprio le impronte dell'astronave per l'atterraggio, lì effettivamente riesco ad avere un appuntamento con questa sciamana che mi con una tecnica particolare mi inizia, dopo avermi fatto i tarocchi, le carte, mi fa un massaggio anche lei, un massaggio che è stato una delle esperienze forse più interessanti dell'intera esperienza di Tecno Sciamani, di questo lungo viaggio, perché sempre con queste mani potentissime, questi pollici che non avevano pietà, penetrava nel nodi di dolore e mi diceva di respirare come un cagnolino, così, di modo da poi ovviamente iperventilando indurre delle piccole allucinazioni. Eppure il dolore non passa, il problema è serio, parola di Salomè. E così ci si rimette in marcia. Destinazione Sierra de los Padres, stavolta a sud di Buenos Aires, sull'Oceano Atlantico. Qui c'è qualcuno che farà a Carlo niente meno che un'iniziazione candomblé. E cosa sarà mai? Il candomblé è una religione afro-brasiliana praticata prevalentemente in Brasile, ma anche in stati vicini come l'Uruguay, il Paraguay, l'Argentina e il Venezuela. Mescolanza di riti indigeni, credenze africane e cristianesimo, questa religione consiste nel culto degli Orixa, divinità di origine totemica e familiare, associati ciascuno a un elemento naturale, e si basa sulla fede in un'anima propria della natura. Arriviamo a Sierra de los Padres e non sappiamo dove trovarlo. Poi io per caso ci fermiamo in un posticino, mi addentro in un centro commerciale e lo incontro. Ah sì, lo spirito di Changò che vi ha portato qui, anche se non sapevate dov'era, comincia così. E partiamo con altre 11 persone, andiamo a casa, all'imbrunire, a casa di questo esorcista, che si presenta così, un uomo della mia età, un quarantenne, che aveva avuto delle esperienze molto molto interessanti, così come me le ha raccontate anche nei giorni successivi. Ma quella sera, niente, lì abbiamo l'iniziazione, cioè lui beve della cachaça, fuma dei sigari e si trasforma da un ragazzo gentile con la voce tenue che aveva, si mette a parlare un incrocio di brasiliano e argentino e diventa un po' Changò, lo spirito di Changò, diventa quella che chiamano in termine tecnico la canalizzazione, sta canalizzando uno spirito esterno, la possessione, in termini esorcistici insomma. Lo stregone esorcista della Sierra de los Padres è molto interessante dal punto di vista folcloristico e forse antropologico. Peccato che per i mal di schiena di Carlo ancora non si veda la luce, finché non si ritrova a dover fare i conti con l'effetto Kirlian. Effetto Kirlian. Effetto che si produce ponendo un oggetto a contatto con un foglio di materiale fotografico e applicandovi un'elevata tensione elettrica mediante un apparato detto camera Kirlian. Sotto opportune circostanze, l'immagine che ne risulta ritrae il contorno dell'oggetto circondato da un alone luminescente, dai bordi sfumati, alone che può apparire colorato se si impiega materiale sensibile in grado di registrare i colori. Taluni ritengono che l'immagine prodotta da una camera Kirlian ritragga la cosiddetta aura vitale, un'emanazione di natura indefinita che alcune filosofie orientali ritengono circondi ogni essere vivente. Aveva due macchinari, la camera Kirlian e l'aura imaging, che avevo già conosciuto comunque anche nel viaggio in California. E lì invece mi chiede di appoggiare una mano in una strana scatoletta che sembrava una scatoletta della tecnologia degli anni 70, con i bulloni quasi, con dei sensori a forma di mano, e di semplicemente di appoggiare la mano destra. Io appoggio la mano e vedo che trasale, perché guarda lo schermo, un vecchio monitor di quelli bombati di plastica color beige con le bruciature di sigarette sopra, eccetera, e lui trasale perché dice: oddio, non avevo capito una cosa del genere, perché intanto hai dei colori nella tua aura, sono molto peggio di quello che pensassi, molto più rosso. E poi fa: guarda qui, mi indica l'immagine stilizzata di un torso umano, che in teoria dovrebbe essere mio, cioè si vede proprio il corpo di un uomo nella zona del torso. Mi indica: guarda lì, cosa vedi? C'è qualcosa che si muove come fosse una nuvola di qualche tipo. Poi guardo un po' meglio e vedo che proprio nel torso di questa figura stilizzata, che secondo lui sarei io, cioè informazione che veniva trasferita elettromagneticamente dalla mia mano, si vedeva proprio all'altezza dell'ombelico come una boccuccia. poi all'altezza dei capezzoli due occhi un po' demoniaci e sotto le ascelle si infilavano dei cornetti da diavoletta. No dai, Carlo è posseduto, ci mancava solo questo. Mentre mi racconta le sue esperienze, rifletto su tutti i viaggi fatti fin qui, sulle sorprese, gli aneddoti, gli imprevisti, nei quali tutti gli scrittori mi hanno coinvolta, chi più chi meno, e penso che questo sia davvero il viaggio più lontano e surreale che abbia mai fatto. La geografia non c'entra, e forse è proprio quando c'entra meno che senti di essere partita per una terra sconosciuta e distante. Ma niente panico, sono comunque in buona compagnia. Hai mai provato l'orrore? Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. A caccia di sciamani con Carlo Pizzati. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Abbiamo già fatto il giro di tre continenti alla ricerca della formula magica, è il caso di dirlo, per risolvere un doloroso mal di schiena. Chi ne soffre è Carlo Pizzati, il mio compagno di viaggio, un viaggio surreale. Siamo stati in Colorado, poi a Los Angeles, infine in Argentina, in mezzo a stregoni ed esorcisti, per poi tornare di nuovo in Italia. Ed è vicino a casa, infatti, che si comincia a intravedere un po' di speranza per lui e il suo dolore, quando si iscrive a un corso di meditazione trascendentale su suggerimento di un amico vicentino. E lì capisco, come racconto un po' anche in Tecnosciamani, alcune delle tecniche utilizzate. Cerco di mettere in collegamento tra i vantaggi che se ne può trarre attraverso questa tecnica con il corpo, cioè i vantaggi che il corpo ne può trarre attraverso l'utilizzo della tecnica della meditazione trascendentale. Ma questo avvicinamento alla meditazione apre in qualche modo le porte per un viaggio in India, che è il secondo movimento. Il secondo movimento del libro. Eccoci in India. E dove, se non qui, poteva arrivare un po' di pace? E allora a questo punto potrei, forse, visto che siamo arrivati in India e vi ho parlato dei miei amici meditonti, così come li ho soprannominati, proprio perché pensavo che si stesse diventando un po' tonto, questo gruppo di meditonti vicentini, potrei invece leggervi quello che è l'inizio della seconda parte di Tecnosciamani, che si svolge interamente nel sud dell'India attraverso viaggi negli ashram dello yoga Ashtanga, nell'ashram di meditazione e scoprendo la medicina ayurvedica. E potrei leggere il capitolo di quello che è stato invece una notte scioccante, cioè la prima notte che ho passato in India nella mia vita, e che si intitola My Miserable Life in Mysore, perché è a Mysore che arrivo la prima notte in India. Il sottotitolo di questo capitolo è L'inventario della coscienza. In mezzo ad un flusso di coscienza alla Joyce, affiorano per Pizzati varie domande. Tra queste la più scontata, se vogliamo, quella che vi sarete fatti anche voi arrivati a questo punto: cosa ci faccio io qui? Ma l'India sa dare anche a questo una risposta, con la sua magia, col suo lento e costante massaggio dell'anima, come lo chiama Carlo. Il caos esterno rappacifica quello interno, e la sera, finalmente, forse grazie alla mia nuova lampadina da 60 watt infilata in una piccola bajur nera voltata verso il muro color sabbia, mi sento così libero, leggero e felice che mi pare quasi di sentire le carezze dell'abbraccio caldo di mamma India, che mi culla nella sua delirante dolcezza e mi addormenta con un sorriso. Sono a Mysore, dove Pattabhi Joyce vive da una vita insegnando l'ashtanga a generazioni e generazioni di yogi, tra i quali Madonna e Sting, che praticano questo tipo di yoga. E ho deciso di iniziare lì perché dovevo andare a trovare un robot che faceva l'astrologo, un tecnoastrologo, e non riesco a trovarlo, e quindi invece di andare al nord mi ritrovo a Mysore, mi iscrivo a questo corso e sto un mese lì. Fuori grida l'indiana città, attualità, velocità, India, un sorriso ha fra i tuoi capelli d'idea, una selvaggia azalea. India, raffinata poesia. Ha ragione Paolo Conte, anche se a giudicare da quanto sta per succedere a Carlo e al suo mal di schiena dopo tanto viaggiare, di poetico c'è poco, visto che riaffiora quel dialetto che mi diverte tanto. E di mezzo c'è di nuovo Vicenza. Prendo l'aereo e torno a Madras, dove incrocio 150 vicentini che partono molto decisi verso la montagna sacra di Arunachala a Tiruvannamalai, che è a 3 ore e mezza da Madras, dove c'è un ashram e dove si pratica la meditazione per alcune ore al giorno, in attesa di affrontare la Pradakshina, che è un pellegrinaggio a piedi nudi per 14 chilometri attorno alla montagna sacra, che viene vista come l'incarnazione di Shiva, che è una delle tre divinità della Trimurti indù. E lì anch'io mi tolgo le ciabatte, preoccupatissimo. Io ho la pelle molto molto tenera sotto i piedi, non so se sia perché sono dei pesci, come mi hanno detto, ma comunque è tenera, ed ero terrorizzato ovviamente, perché vai, va bene, medita e cerca di astrarre la mente, però avevo sentito storie orribili, ho visto gente urlare dal dolore, il giorno dopo cercavano di estrarre le schegge, eccetera. E lì, diciamo che in mezzo a questi vicentini che comunque sdrammatizzavano l'esperienza, perché loro vanno lì da tantissimi anni e parlano, diciamo, mezzo vicentino e mezzo sanscrito, per cui ogni tanto camminando sentivo qualcuno diceva che è proprio una bella shaktiti, così allora mi sentivo un po' anche riportato al presente. Tra una risata e una riflessione seria siamo arrivati anche alla fine del racconto, alla fine della ricerca del rimedio al mal di schiena e alla fine ovviamente del libro Tecnosciamani. L'ultimo capitolo, mi spiega Carlo, lui lo definisce un viaggio nei continenti chiamati idee invece che nei continenti veri e propri, e porta il titolo L'androide spirituale che è in noi. Si tratta di un viaggio a sé che indaga il rapporto tra tecnologia e spiritualità, un po' l'obiettivo di tutto questo nostro peregrinare. Poi dopo si subentra in dibattiti teologici, filosofici interessantissimi. Ad ogni modo, in questo capitolo, poi facendo un escursus attraverso il rapporto con gli automi in tutta la storia, dall'antica Grecia alla Cina, al Golem, Frankenstein, eccetera, ma fino a Matrix, fino al cinema contemporaneo, io robot, vado a un po' a raccontare quello che sta ipotizzando il futurologo Ray Kurzweil, e quindi la nostra trasformazione in androidi, che è già in atto un po' con le protesi che stanno già entrando in noi. E Kurzweil dice che forse l'unica cura, non lo dice a me, ma poi ecco, trago questo insegnamento, che l'unica cura per il mio mal di schiena, forse vero e proprio, sarà quando riusciremo davvero a fare, come dice lui, il download della coscienza, cioè riusciremo davvero a rubare il segreto della mente, del suo funzionamento, e farci un download, non avremo più bisogno del corpo, non ci sarà più il mal di schiena, saremo nel nirvana tecnologico. Alla fine di questo viaggio siamo arrivati al nirvana tecnologico. Non so se è davvero quello che ci dobbiamo augurare. Io comunque sia, anche senza, per ora mi sento bene. E voi? Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. Ora Carlo Pizzati è in libreria con Criminal, FBE Edizioni. So good. So good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice.